che davanti alle mie lacrime non cambi di una virgola. Al di là di queste pagine ho deciso di sorridere, ostentando il mio benessere, così ridendo andarmene, lasciandoti nel buio della tua meschina. Tanto vale farsi meno scrupoli, evitando di rispondere, contestualmente aggiungere che è molto meglio vivere trovando nuove formule, lasciandoti a riflettere su questa mia incredibile superficialità. Restano le numerose acredini, rimangono gli strascichi sepolti sotto ettari di campi di papaveri, così che respirandoli non possa mai succedere di cedere anche un attimo alla tua volgarità. Tanto sono sempre stati inutili i miei ottimi propositi, che a furia di ripeterli si è consumato il disco. Poi le cose si capiscono, le rose rifioriscono e io ti seppellisco con la mia serenità. E nel mio cuore non c'è più nessuno, non c'è più nessuno, non c'è più nessuno. Ritorno artefice del mio destino, e la valigia adesso è il mio cuscino. E nel mio cuore non c'è più nessuno, non c'è più nessuno. Che la situazione attuale non è certo divertente. Vivo a casa di mia madre e sul conto poco niente, ma mi sveglio sorridente. C'è anche un tipo interessante conosciuto di recente, ma sta bene dove stai. Per favore sti legami che non servono più a niente, e non dire che mi ami, che mi incazzo veramente. Devi farti una ragione, devi andartene a Vancouver, a Toronto, scegli una destinazione. Ma torna artefice del tuo destino, io non ci sono e non starò vicino. A un certo punto ci sarà qualcuno, ci sarà qualcuno, ci sarà qualcuno. Io torno artefice del mio destino, e la valigia adesso è il mio cuscino. Ma nel mio cuore non c'è più nessuno, non c'è più nessuno. Da da da da da. Toronto ci sono stata con Bonetti, era fredda ma intrigante. Non eri tu.